9 in punto. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben trovati a 9 in punta. Allora, prima di introdurvi l'argomento del quale parleremo questa mattina, anche se ve l'ho già anticipato nel corso del giornale radio, perché ovviamente ci piacerà stamattina analizzare la questione legata agli arresti di Dominique Strauss-Kahn e tutte le conseguenze di questa vicenda, soprattutto politiche in Francia, ma anche tutta la questione legata alla sua possibile successione al Fondo Monetario Internazionale, volevo rispondere a tutti gli ascoltatori che ci stanno chiedendo, anche se credo che qualche spiegazione vi sia stata già data, sull'assenza di Oscar Giannino, dietro alla quale molti ascoltatori vedono chissà quale disegno e quale strategia. Vi assicuro che Oscar ha degli impegni professionali, io so benissimo di non avere neanche un decimo della sua bravura e della sua autorevolezza, però state tranquilli che tornerà al più presto a degli impegni professionali e per i quali si sono rese necessarie appunto delle sostituzioni in questi giorni, per cui voglio tranquillizzare Rosalba che ci ha scritto e altri ascoltatori come Francesco da Verona che continua ad essere il più insistente sul punto appunto della strategia dietro alla sua assenza. Io invece saluto Oscar con tanto affetto e vado al tema di oggi. Ha colpito molto l'opinione pubblica generale, appunto i giornali ci si sono buttati a capofitto, come potete immaginare, come avrete letto in questi giorni, la vicenda del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn, arrestato clamorosamente sabato scorso a New York con l'accusa di stupro su una cameriera, uno stupro consumato nella suite di un hotel di lusso di Times Square, una vicenda che ha scatenato delle prese di posizione di ogni tipo. Ieri c'è stata anche un'accesissima discussione tra i ministri finanziari dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per discutere di Grecia e di debito sovrano. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha avuto parole di solidarietà nei confronti di Strauss-Kahn, forse è stato l'unico che ha mosso appunto questa azione di difesa, ha detto è un buon amico, ha espresso solidarietà anche per il fatto che è già partita la discussione sulla sua successione alla guida del Fondo Monetario Internazionale. Juncker ha definito indecente il dibattito sulla successione per l'appunto. È opportuno che con un'accusa così infamante non ritenga necessario fare un passo indietro? Questa è la prima domanda che vi rivolgiamo, se volete potete appunto esprimerci i vostri commenti all'800 024 0024 o al 349 238 6666. Un altro taglio interessante al dibattito ieri sempre in sede Ecofin lo hanno dato le donne sedute appunto a questo tavolo, che hanno chiesto a Strauss-Kahn di assumersi chiaramente le proprie responsabilità e fare questo passo indietro e quindi dimettersi. C'è poi il versante francese della discussione della questione, non solo perché Strauss-Kahn è francese, ma anche perché si apprestava a diventare un protagonista in prima linea della campagna elettorale per le presidenziali del prossimo anno. Il Partito Socialista ha rivolto delle critiche durissime al sistema giudiziario americano per avere diffuso le immagini dell'uomo in manette. Abbiamo visto sui giornali di questi giorni le foto di Strauss-Kahn, l'uomo che fino a pochi giorni fa aveva in mano il destino della Grecia e le redini di quella che è definita la cassaforte mondiale. Lo abbiamo visto nell'aula del tribunale newyorkese con barba incolta, stanco, provato, occhiaie profonde, vestito trasandato, sguardo abbassato, spento, irriconoscibile. Tra l'altro appunto il tribunale di New York non gli ha neanche riconosciuto nessuna possibilità di uscita su cauzione e quindi doppiamente, come dire, provato il suo sguardo. Il fronte francese appunto è proprio particolarmente interessante, come vi dicevo, perché monta la corrente di chi ritiene che tutta la questione sia l'epilogo di un complotto proprio per demolire un candidato molto forte e super favorito nei sondaggi per la corsa all'Eliseo nel 2012. C'è poi anche tutto l'aspetto che stamattina è enfatizzato da diversi corrispondenti dei quotidiani italiani dagli Stati Uniti, il carcere durissimo a cui è stato sottoposto, cibo di pessima qualità e tanti altri dettagli. Allora, vi appassiona intanto la tesi del complotto politico? La politica ha ancora bisogno di questo per demolire gli avversari forti? Condividete la rivolta rosa in sede Ecofin? Vi appassiona anche il dibattito sulla successione per la guida del Fondo Monetario Internazionale? Allora, tanti aspetti interessanti, tanti tagli possibili del dibattito di questa mattina. Io intanto ringrazio e saluto per essere con noi Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore, a lungo inviato del Sole, corrispondente da Washington, quindi conosce vita, morte e miracoli della vita del Fondo Monetario Internazionale. So che ha incontrato Strauss-Kahn anche diverse volte. Alessandro, buongiorno, benvenuto a 9 in punto. Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto anche il corrispondente italiano di Liberation, spero di pronunciare correttamente nome e cognome francese, Eric Joseph, buongiorno. Buongiorno a voi. Eric, buongiorno. Allora, io vi ricordo, più tardi ci collegheremo anche con Franco Becchis, vice direttore di Libero, che ieri esprime molto chiaramente la teoria del complotto politico appunto francese, perché ricostruendo anche la possibile dinamica di quanto accaduto in questo albergo newyorkese sabato scorso, si mettono così in luce degli aspetti che in realtà non starebbero né in cielo né in terra. Detto questo, ci sono già molte donne che ci stanno scrivendo. Liana, per esempio, scrive: no al potere dell'uomo sul corpo della donna, no allo strapotere dei potenti. Anche questo, insomma, magari è un taglio che potremmo commentare. Alessandro, volevo prima di tutto partire con te. Ce ne tracci un tuo ritratto personale della figura di Dominique Strauss-Kahn a pelle, avendolo incontrato? Ti è sembrato un personaggio che amava in maniera così ossessiva, come molti giornali hanno raccontato in questi giorni, esercitare il fascino del suo potere sulle donne? Ti è capitato anche di notare questi aspetti nel corso delle tue interviste, dei tuoi incontri appunto al Fondo Monetario a Washington? Ma conosco bene Strauss-Kahn, diciamo soprattutto il lato pubblico di Strauss-Kahn. Tra l'altro anche la settimana scorsa siamo stati due giorni assieme con un gruppo ristretto di persone, economisti, banchieri centrali, per discutere del futuro del sistema monetario internazionale a Zurigo, e Strauss-Kahn era come al solito perfettamente in controllo, telefonava con uno dei suoi tanti cellulari, uno dei particolari della vicenda del Sofitel, che ha lasciato appunto uno dei suoi telefonini nella stanza d'albergo dove sarebbe avvenuto lo stupro, poi ha avuto un'ora di colloquio a porte chiuse con la Lagarde. Era l'uomo al centro della gestione non solo del sistema monetario internazionale, ma anche della crisi europea. Esercitava una grande influenza su ministri delle finanze, capi di Stato. Sappiamo che poco prima di essere, poi subito dopo l'arresto, avrebbe dovuto avvenire un suo incontro con il cancelliere tedesco, con Angela Merkel. Sì. Devo dire, personalmente, un uomo estremamente affabile, anche affascinante, di grandissima intelligenza. Certamente da anni circolavano queste voci sul lato oscuro di Strauss-Kahn, di questa sua passione anche smodata per le donne, e c'era stato quell'episodio al Fondo Monetario 3 anni fa, poco dopo il suo insegnamento, di una relazione extraconiugale che lui, sposato, aveva avuto con una collaboratrice, con un economista del Fondo Monetario, anche lei sposata, durante viaggi di lavoro assieme. Poi era stato scagionato dal consiglio del fondo, però era rimasta un po' questa macchia. Credo che allora, anche per il fatto che si era nel pieno della crisi globale, non si era voluto destabilizzare il Fondo Monetario, ma naturalmente si tratta di episodi molto diversi nella loro gravità, se questi ultimi fossero stati provati. Quella era una relazione consensuale, diciamo, fra due adulti consenzienti, che per quanto uno possa deprecare dal punto di vista morale, non ha certamente risvolti penali di una gravità assoluta che avrebbero infatti di, certo, New York, se saranno provati. A meno che, certo, magari, non so, questa donna non avesse avuto una posizione particolare insieme al Fondo Monetario Internazionale che lui avrebbe favorito. Detto, visto che questo poi non si è verificato, è chiaro che il dibattito lì si è spento. Questo è un caso invece un po' più preoccupante, un po' più grave, sia per la dinamica raccontata appunto dai giornali, sia per il fatto che si incrocia invece proprio con l'avvio della campagna elettorale francese. Poi andremo, Alessandro, anche al tema della successione al Fondo Monetario Internazionale, la richiesta, la rivolta rosa in seno all'Ecofin, la richiesta in particolar modo di due ministre a Strauss-Kahn di farsi da parte, Juncker che invece lo difende, e andiamo invece al versante francese appunto con il corrispondente in Italia di Liberazione, Eric Joseph. Eric, ancora buongiorno. Ci sono state e ci sono ancora in corso in Francia queste critiche durissime al sistema giudiziario americano, che non va mai troppo per la leggera. Ne ricordiamo ancora a Madoff che cosa è successo, anche se lui si era reso colpevole appunto di una truffa finanziaria enorme. Però insomma, le critiche arrivano dalla Francia, arrivano particolarmente dal partito di Strauss-Kahn, che è il Partito Socialista Francese, che ha definito proprio rivoltanti le immagini che io raccontavo prima di Strauss-Kahn in manette. il suo sguardo spento, molto provato, per non parlare poi dei dettagli che emergono in questi giorni relativamente alla sua carcerazione. Tanto per cominciare, è vero che il suo partito lo avrebbe abbandonato, Eric, in queste ore? Ma abbandonato no, non direi, però senz'altro cominciano a prendere un po' di distanze rispetto a quello che esce, nel senso che ovviamente sentono che nell'opinione pubblica è passata lo sgomento, il stupore rispetto appunto all'annuncio che Strauss-Kahn avrebbe stuprato una signora nell'albergo di New York. Dunque, dopo questo stupore comincia a farsi anche avanti le voci delle persone che mettono in avanti che ci sarebbe una vittima se il caso dello stupro fosse provato, e questa vittima non sarebbe Strauss-Kahn ma ovviamente la signora. E dunque il Partito Socialista in qualche maniera riquadrato, rimesso un po' a posto il suo discorso, mentre nel primo tempo era proprio un discorso di sostegno pieno a Strauss-Kahn, precauzione, di mettevano in avanti che appunto non si sapeva esattamente ancora la dinamica, che era difficile di pensare che un uomo, anche seduttore come Strauss-Kahn, arrivasse a una violenza carnale. E adesso c'è una qualche maniera appunto presa di distanza, se non è assolutamente un abbandono, perché ovviamente quello che ha stupito molto l'opinione pubblica francese non è abituata senz'altro a vedere anche un accusato, cioè le telecamere in Francia non possono entrare nelle aule di giustizia, non si mettono le manette a una persona che non rischia di sfuggire o di commettere violenze, e dunque senz'altro la giustizia americana non corrisponde alle abitudini, al costume della giustizia francese, dunque questo ha creato ulteriore stupore. Mm-hmm. Tuttavia appunto adesso c'è questa un po' in qualche maniera un'attesa, perché anche l'altro elemento che è stato molto criticato è che finora si è sentito un po' soltanto la parola dell'accusa e non la parola della difesa, cioè non sappiamo esattamente quale sarà la difesa di Strauss-Kahn. In primo tempo i suoi avvocati hanno detto che si dichiarava non colpevole, però non si sa esattamente qual è la versione di Strauss-Kahn, anche se ovviamente riemergono tante storie sul personaggio e creano anche un altro problema di sapere per quale motivo queste storie che sono raccontate oggi non sono emerse prima, e dunque ci rischia di essere anche un'accusa abbastanza forte sulla classe politica e sulla stampa. Esatto, la coincidenza in sostanza degli eventi è ovvio che enfatizza un po' e in qualche maniera avvalora le tesi di chi sostiene il complotto, che peraltro è una tesi che viene portata avanti in maniera piuttosto forte, quella dell'orchestrazione appunto a danno del rivale di Sarko. Dove sei, Eric, stamattina in giro? Sentiamo un po' di rumori di clacson. Detto questo, appunto, Le Monde, dicevo, sta cavalcando con grande enfasi la tesi dell'orchestrazione a danno del rivale di Sarko, poi ci racconterai la posizione invece di Libération e il fatto che per esempio proprio il 28 aprile, questa è un'intervista appunto della quale si racconta parecchio in diversi giornali, confidò proprio, se non sbaglio, al vostro giornale che aveva la sensazione che in qualche maniera i rivali politici avrebbero pagato una donna per fermare la sua corsa all'Eliseo. Detto questo però ti volevo chiedere un'altra cosa, Eric, sempre relativamente al profilo intellettuale e politico appunto di Dominique Strauss-Kahn. Lui è stato ministro dell'economia nel 97 con Lionel Jospin, primo ministro francese appunto in quel periodo, fu ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria, e mi sembra che fece un buon governo dell'economia francese. Ho ricostruito un po' tutta la sua storia politica con Wikipedia, lo dico perché non mi ricordavo esattamente bene quale fosse stato, come dire, la successione anche dei suoi incarichi francesi. Le principali iniziative del suo mandato ministeriale furono per esempio l'abbattimento dell'IVA al 5,5% nel settore edile per rilanciare l'attività del settore, disincentivare l'evasione fiscale, magari da noi qua si riuscisse in questo campo. Comunque il suo profilo, diciamo, di guida un dicastero economico è un profilo che è stato apprezzato in Francia, quindi da questo punto di vista ha una buona reputazione Strauss-Kahn, che rischia adesso di essere completamente oscurata con questa vicenda. Ma Strauss-Kahn Vatican ha un'eccellente reputazione, nel senso che dal punto di vista dell'economia è considerato proprio come non soltanto un professore di economia, ma comunque come uno che è capace di gestire una situazione economica, e anche una situazione economica come quella che il Fondo Monetario Internazionale deve affrontare oggi. Strauss-Kahn incarnava in qualche maniera il socialismo moderno, il socialdemocratico moderno, cioè capace di accettare il mercato, ma anche di canalizzarlo, e questo in particolar modo di fronte a una situazione di globalizzazione che cambia tutti i punti di riferimento economici. Strauss-Kahn incarnava in qualche maniera la sinistra, il centro-sinistra moderno, e questo con una competenza riconosciuta. È stato ovviamente, prima di essere ministro, professore di economia, sì. e dunque aveva questa capacità di rassicurare, di avere un approccio, di riconoscere il libero mercato, ma di anche capirne le conseguenze sociali e di appunto adattare l'economia e la società a questo cambiamento globale. E si vede anche dal punto di vista di questo, si è visto nel 97 con Jospin. Allora è vero che il contesto internazionale era favorevole, però a un certo punto la Francia è cresciuta del 4%, quello che non conosceva da tanti anni, e dunque il bilancio economico di Jospin è stato positivo, anche se non alla fine non è stato lì, è stato riconosciuto dagli elettori. Poi ricordiamo anche che Dominique Strauss-Kahn era dovuto dimettersi anche per una vicenda finanziaria, di accuse di soldi, che era uno dei suoi altri punti deboli, però senz'altro Strauss-Kahn era il candidato che di più aveva una statura internazionale, e si vede questa capacità di Strauss-Kahn anche dal punto di vista della gestione della crisi greca. Ad esempio stava negoziando in modo di in qualche maniera ridefinire le condizioni che erano state imposte alla Grecia, perché sono delle condizioni che in qualche maniera sono insostenibili, e Strauss-Kahn, con la sua capacità, la sua competenza e un certo carisma economico, aveva questa capacità in qualche maniera convincere, rassicurare alcuni interlocutori, in particolare i greci e i tedeschi, sulla capacità di in qualche maniera rinegoziare, adattare le condizioni imposte alla Grecia di fronte alla situazione reale. E quindi autorevole, influente, capace anche appunto di essere molto carismatico nelle trattative economiche più importanti, finanziarie più importanti, però un uomo debole, e adesso paga anche probabilmente, fino a quando ovviamente la sua colpevolezza non sarà dimostrata, per questa sua debolezza nei confronti delle donne. Però c'è tutto l'aspetto politico, allora noi di questo parleremo anche di nuovo nella seconda parte di 9 in punto tra pochissimo. Poi prenderemo anche le vostre domande, c'è un ascoltatore da Udine pronto che addirittura vorrebbe introdurre il tema di un complotto architettato dagli Stati Uniti, e per quale motivo, non so, forse perché non accettano più che un esponente di peso del Fondo Monetario Internazionale continui ad essere di espressione europea. Auro da Udine, poi coglieremo sicuramente anche le sue osservazioni. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Stanno arrivando molti messaggi da donne che chiedono per quale motivo non abbiamo portato una voce femminile questa mattina a 9 in punto per discutere di questo argomento, perché non volevamo dare questo taglio al tema, volevamo soffermarci di più sul personaggio, sulla sua reputazione, sugli organismi che guida e sul tema appunto del complotto politico francese. Magari ci ritorneremo più avanti, a tra poco. 9 in punto questa mattina, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Vi ricordo che potete intervenire all'800 24 00 24, scriverci, sono tanti messaggi, soprattutto di donne che ci stanno arrivando, al 349 238 6666. C'è addirittura chi dice: chissà quante donne ha violentato sfruttando la sua posizione, vi rendete conto? Basta difendere un maniaco. Qua non c'è nessuna presa di posizione, c'è solo un'analisi di una situazione che ha trovato larghissimo spazio, ovviamente anche proprio per la dinamica con cui si è svolta, sia con cui è stata scoperta questa faccenda del presunto stupro, sia le modalità con cui poi Strauss-Kahn è stato condotto in carcere, tutte le foto pubblicate da tutti i giornali. Insomma, in America hanno questa abitudine, ci spiegava molto bene anche il collega di Liberation che in Francia non sono abituati ad atteggiamenti di questo tipo, e quindi questo scandalizza in maniera molto, molto forte appunto in Francia. Detto questo, c'è la teoria del complotto, ci sono le presidenziali francesi il prossimo anno, il 28 giugno peraltro. Joseph, se non sbaglio, se lo abbiamo recuperato di nuovo diciamo il cambio di telefono non ce l'abbiamo ancora, dovrebbero essere il 28 giugno dell'anno prossimo. E peraltro c'è anche questo, questa coincidenza che è stata riportata da alcuni giornali ieri, che la stanza d'albergo che occupava, la suite d'albergo che occupava Times Square, appunto in questo albergo di lusso, Strauss-Kahn, sabato scorso, quando è stato colto in flagrante, insomma quando è stato si sarebbe reso protagonista appunto di questo stupro e danni di questa cameriera, la stanza che occupava era proprio la 2806. Vabbè, adesso non sappiamo se si tratta di cabala o strana, curiosa coincidenza. Detto questo, qualche giornale ha messo in evidenza anche questo punto. Volevo salutare Franco Becchis, vice direttore di Libero. Buongiorno Becchis. Buongiorno a tutti voi. Allora, il tema del complotto è stato il tema appunto sul quale stanno concentrando l'attenzione in molti. Lo avete fatto anche voi ieri su Libero, ricostruendo un po' tutto ciò che non torna della dinamica della giornata di sabato. No? Sì, guardi, ieri noi citavamo peraltro proprio un articolo di Liberazione che la famosa intervista del 28 aprile. Quella del 28 aprile di cui probabilmente avete parlato. Citato, anche voi prima. Sì, la devo ancora raccontare nel dettaglio, però se vuole lo può fare lei. No, era semplicemente, poi bisogna tutto, ovviamente deve essere ritenuto vero e attendibile, perché è uscito in realtà dopo gli avvenimenti e dopo l'arresto di Strauss-Kahn. Però un giornalista di Liberazione sostiene di averlo incontrato a pranzo, di quei pranzi che ogni tanto i giornalisti fanno giusto per tenere contatti e con l'impegno di non riportare poi le cose che si dicono, che possono essere un po' più libere. Off the record, come si chiama tra di noi, sì. E in quel pranzo Strauss-Kahn ha pure fatto una battuta su pagheranno magari una donna, approfittando di questa nomea che lui aveva, dice. Tanti dicono, ci sono tante voci su che proprio una nomea non era, ecco, che lui, insomma, che avesse questa debolezza era abbastanza noto, e anche la moglie sembra che abbia chiuso gli occhi su tante vicende del passato. Sì, questa però è venute fuori avventure extraconiugali. Sì. Una dice: sì, io amo le donne, e allora dicono che ci sono foto di orge, lo dicono tutti, le tirino fuori perché io non le ho mai viste, e in ogni caso pensi un po' che potrebbe pure accadere che pagano una donna 500.000 euro o 1 milione di euro per dire che l'ho violentata in un parcheggio. Ecco, è una cosa che qualche impressione ha fatto, se davvero è avvenuta. E poi ci sono tanti punti oscuri di questa vicenda, ma diciamo oscuri per il buon senso. Pare che durante un summit abbia incontrato pare che durante un summit, anche questo lei lo racconta ieri su Libero, abbia incontrato Sarkozy in un bagno e gli abbia detto: smettetela di indagare sulla mia vita privata. Immaginate, insomma, privata, tutti e due che fanno la pipì vicini una fianca all'altro, e uno dice all'altro: smettila di indagare sulla mia vita. Però io Becchis se le chiedo: ma per quale motivo la politica ha ancora bisogno di individuare le debolezze dell'uomo fino a questo livello pur di abbattere un avversario politico? Addirittura la politica è capace di spingersi al punto di portare un uomo della caratura di Dominique Strauss-Kahn in un carcere duro come quello che sta vivendo in questo momento, perché i dettagli li abbiamo letti tutti quanti, insomma quello di Rikers Island sembra essere veramente un ambiente terribile da ogni punto di vista. Diciamo, lì dentro c'è anche una serie di altri fattori che sono invece tipicamente americani. Questo, quello forse non è nel nostro immaginario che cosa succede in America per un reato sessuale, in particolare a New York, dove il procuratore distrettuale che era Cyrus Vance Jr., che il figlio del padre che è stato anche il sottosegretario di Stato all'epoca di Carter, ha fatto tutta la sua campagna elettorale, perché là è una campagna elettorale quella per diventare procuratore distrettuale, è proprio sui reati di violenza sessuale. Quindi diciamo si è creato una concatenazione di cause e anche di coincidenze, per cui in effetti la punizione sembra particolarmente dura. È esemplare. Certo, diciamo, di garantismo ce n'è poco. E bisogna anche dire che, avendo fatto la sua campagna su quello, e in realtà nell'anno, anno e mezzo in cui è procuratore distrettuale, avendo preso due grosse accantonate su reati di tipo sessuale, ne è accaduto addirittura di un caso in cui c'è stato un rapporto consensuale e con un litigio lei poi l'ha denunciato per violenza sessuale, è stata la fortuna di quella persona avere una telecamera nella stanza in cui tutto ciò è avvenuto, che aveva filmato tutto. Non era una prova legale, ma è stata sufficiente, perché le immagini parlavano chiare, per tirarlo fuori dai guai, ma anche lui era stato arrestato. Quindi diciamo ci sono casi di errori giudiziari, e siccome lì la punizione è piuttosto severa, ecco. Poi tutto può essere avvenuto, se è avvenuto un caso di violenza sessuale ovviamente va punito senza se e senza ma. I dubbi sono sulla costruzione dei particolari di questa storia, come diciamo si può dubitare di qualsiasi cosa. Certo, sulla ricostruzione, sulla coincidenza con appunto l'avvio della campagna elettorale, che sarà sicuramente anche particolarmente dura in Francia, e su tanti altri aspetti. Adesso c'è anche il tema del futuro del Fondo Monetario Internazionale, di una persona altrettanto autorevole che possa sedersi sulla poltrona di Strauss-Kahn. Volevo sentire alcuni ascoltatori, poi continuare il dibattito anche con Alessandro Merli e Derek Joseph. Allora, chi abbiamo? Aulo da Udine, che stava aspettando da un po'. Aulo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie intanto. Niente, io, come appunto lei ha già anticipato, la mia opinione è quello che sia effettivamente un complotto tra la Francia e gli Stati Uniti, anche per i rapporti che ci sono adesso, no? Con gli interessi della guerra in Libia. La cosa che un po' mi ha stupito però è il fatto che gli Stati Uniti di solito si reputano un paese molto garantista. Allora dico, ma è possibile che una signora al mattino si svegli, faccia delle accuse, una persona venga arrestata, venga poi incarcerata? Tra l'altro mi pare di aver letto con questi modi anche così duri, no? Nei confronti di questo signore. Poi dico, ammesso e non concesso che lui fosse ossessionato dal sesso, ma non mi parrebbe che uno avesse bisogno di, un personaggio di un certo tipo come lui, di stuprare una donna, se proprio volesse. Beh, sta con me. No, lei magari ha anche ragione, Aulo comincia ad avere anche un po' più di 60 anni, magari non godeva adesso, aveva un po' questo fascino che andava spendendosi, forse non aveva più il successo, i fasti del passato, magari ci stava rimanendo male e adesso voleva prendere detto questo è chiaramente una divagazione che non ha alcun senso, però magari mi interessa capire se i nostri opinionisti di questa mattina condividono addirittura la sua ardita tesi del complotto franco-americano, appunto per tutta la questione anche libica, che mi sembra un po' una forzatura, però magari insomma ci sta. Andiamo anche a Paolo da Torino, poi ritorno ad Alessandro Merli, perché il tema del candidato europeo al Fondo Monetario Internazionale, alla direzione generale del Fondo Monetario Internazionale, è interessante, perché adesso spingono anche i paesi emergenti per avere un ruolo su questo trono, e adesso ne parleremo. Paolo da Torino. Sì, pronto. Ci dica. Sì, ciao, buongiorno. Due esternazioni così. Allora, uno, tendenzialmente sappiamo che questo è un grande professionista, perché da come dicono nelle varie cose, sotto un certo aspetto professionale. Sì, l'abbiamo detto anche noi, Paolo, all'inizio, sicuramente carismatico, autorevole, molto capace nelle trattative. Il problema è che naturalmente non perché ci sia un complotto, perché io sono convinto che sicuramente la giustizia americana ha completamente altri parametri di movimento che le nostre, no? Come abbiamo visto anche noi con il Berlusconi e queste cose qua. Là sicuramente io sono convinto che sono molto, e come l'aveva già accennato, sono molto più duri e molto più rigidi su certe cose. È logico che anche lì i uomini di potere americani, penso, e questo non so, magari voi ne sapete più di me, penso che sia molto stanno molto attenti a muoversi. Clinton sicuramente. Infatti mi stava fornendo proprio l'assist su un piatto d'argento, volevo citare il caso Clinton, Paolo. Quindi qual è la conclusione alla quale vuole arrivare? No, niente, io direi stanno molto attenti, perché se sotto il tavolo faceva quello che faceva Clinton, l'attenzione. Non penso che ci sia un complotto, penso che sia soltanto una questione di potere, che lui si sentono certe volte purtroppo persone malate di questo di questa piccola, tra virgolette, esigenza di grandezza, di avere questa potenza incredibile, l'ha portato a cadere in questa piccola malattia che lui ha, ecco. Vabbè, per questa piccola malattia che lui ha, Paolo. Siete fantastici, veramente. Eccoci ritrovati a 9 in punto. Ci sono molti ascoltatori che ci dicono che siamo troppo garantisti questa mattina. A me non sembra, nel senso che chiaramente tutto quello che è successo dovrà essere provato. La giustizia americana si muove in tempi molto rapidi, lo sapete bene. Detto questo, io quello che enfatizzo, non lo difendo perché sono una donna e non mi piace a pelle Strauss-Kahn, ve lo dico chiaramente. Detto questo, non lo conosco, potrebbe anche essere che conoscendolo personalmente io cambi completamente idea. Un ascoltatore mi scrive: dai che sei una donna, sei un uomo che non conosci, ti salta addosso, può essere chi vuole, ma è sempre un malato di sesso che non rispetta le donne. Io sono alta 1,80 m, Alex, scoraggio qualunque persona ad aggredirmi, spero che adesso non mi capiti ovviamente, però detto questo, ci sono tanti aspetti. Io il tema del complotto lo stesso non ci credo, però le curiosità emerse rispetto a questa vicenda sono tante, così come tante le coincidenze che poi qualche giornale, per proprio interesse, per posizioni prese, ovviamente enfatizza più di altri. Detto questo, qualche questione che non torna esattamente c'è. Detto questo, andiamo ad Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore, che chissà quante volte proprio con Laura del corrispondente, del giornalista che lavora negli Stati Uniti, lo ha fatto per tanti anni, adesso è ritornato in Italia, chissà quanto avrà esercitato il suo potere sulle donne, con successo magari, Alessandro. Ma non direi proprio, non sono un esperto né di questo né di complotti, quindi... Però sei un esperto di Fondo Monetario Internazionale, adesso è capire qual è il livello del dibattito in seno a questa prestigiosissima istituzione mondiale, che è veramente la cassaforte del mondo, che in questo momento ha in mano il destino della Grecia, probabilmente del Portogallo anche. Alessandro, chi è la persona che, innanzitutto, se è vero che è aperta a questo punto formalmente la gara anche per la successione alla direzione generale del fondo? Non è aperta formalmente, nel senso che Strauss-Kahn non si è ancora dimesso, anzi il Fondo Monetario, prendendo forse un po' le distanze, ieri sera ha detto di non essere ancora riuscito a contattarlo in carcere. È evidente che ci sono delle pressioni fortissime perché lui si dimetta da parte dei paesi membri, degli azionisti del Fondo Monetario, che se poi vogliamo sono un po' i padroni di Strauss-Kahn, no? Quindi possono imporgli di dimettersi, o semplicemente il Consiglio prima o poi si riunirà per dichiarare la sua impossibilità a continuare nell'incarico. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello della successione, che a questo punto mi sembra abbastanza inevitabile. Con un'affermazione di buon senso, il segretario al tesoro americano Tim Geithner ieri sera ha detto: Strauss-Kahn non è in condizione di esercitare il suo ruolo proprio in un momento così delicato. Per quello che riguarda la successione, il Fondo Monetario, da quando è stato fondato nel 1944 a Bretton Woods, è sempre stato guidato da un europeo. Ecco perché? Perché c'era questa spartizione non scritta nel 1944, le due vere potenze dell'economia mondiale erano l'Europa e gli Stati Uniti hanno scelto di prendersi la presidenza della Banca Mondiale e gli europei la direzione del Fondo Monetario. Naturalmente da allora il mondo è molto cambiato, l'economia mondiale è molto cambiata, i rapporti di potere sono molto cambiati, c'è la Cina, c'è il Brasile, c'è l'India, ci sono gli altri paesi emergenti che premono. Quindi da una parte c'è l'Europa, lo hanno ribadito ieri ancora vari ministri alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles, che vuole tenersi questo posto, soprattutto in questo momento in cui i debitori del Fondo Monetario, come sottolineavi giustamente tu, sono soprattutto paesi europei e qualcuno anche dell'Eurozona. Dall'altra ci sono gli emergenti che dicono: non possiamo più continuare a ragionare come se il mondo fosse quello del 1944, dobbiamo avere il nostro spazio, e quindi probabilmente metteranno avanti un loro candidato. È possibile che, se la soluzione avviene in tempi molto rapidi e gli europei mettono avanti un candidato forte, si parla di Christine Lagarde, il ministro dell'economia francese, che è molto rispettata internazionalmente, è possibile che gli europei la spuntino ancora per questa volta. Però è chiaro che gli emergenti stanno facendo sentire la propria voce. Ieri la Cina ha detto che questo deve essere un processo trasparente, non basato più sulla semplice appartenenza di passaporto a un paese o a una regione piuttosto che a un'altra. Quindi ci sarà un certo dibattito, direi, nelle prossime settimane. Per sbloccarlo c'è bisogno che Strauss-Kahn si dimetta oppure che venga rimosso dall'incarico. Credo che al più tardi... Lo farà, secondo te? Credo che al più tardi venerdì, quando ci sarà questa sua comparizione davanti al Grand Jury, davanti alla giuria popolare americana che deve decidere se rinviarla a giudizio o meno, credo che al più tardi venerdì Strauss-Kahn dovrà lasciare l'incarico. E insomma, questo scherzetto, che sia vero o presunto, ha messo in moto veramente un terremoto finanziario e politico di una certa entità. Volevo ritornare ad Eric Joseph, anzi prima rapidamente Luciano da Venezia, poi concludo con Eric. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato e per l'opportunità. Allora, per me è chiaramente visibile complotto anglo-americano. Anche per lei. Anglo-americano. Sì, certo. Perché basta vedere, parte Sarkozy dichiarando guerra a un dittatore libico e per pochi un gruppo di insorti che erano già stati armati, quindi la cosa era già sotto, perché la Libia è interessata al petrolio, che si legge di qualche giornale che ha già fatto i contratti. E in particolare, cosa che non è ancora apparsa, il sole del deserto libico è il sole più forte, quindi in tutto il mondo la zona più adatta per mettere centrali fotovoltaiche. Uno. Secondo, facciamo presente che in Africa ci sono dittatori che stanno ammazzando migliaia di persone e più di qualche osservatore dell'ONU non è andato. Luciano, cosa c'entra Strauss-Kahn in tutto questo? Perché deve pagare lui? Appunto, perché Toscano, l'America ha dato manforte subito, ha risposto con l'Inghilterra e in cambio ha l'appoggio, dà l'appoggio a Sarkozy e Sarkozy dà appoggio americano per scalzare questo personaggio, il quale prima, perché avrebbe, se fosse andato alle elezioni ed eletto in Francia, avrebbe indicato un suo erede e avrebbe comunque influenzato il consesso mondiale sull'elezione del suo successore. Luciano, io la ringrazio, vado da Ricky Joseph appunto di Liberation per chiedergli se in Francia circolano delle ipotesi come quella sollevata, come quella appunto ipotizzata dal nostro ascoltatore di Venezia, se il dibattito si spinge fino a questo punto, se c'è la deriva libica addirittura nel destino di Strauss-Kahn. No, non si parla della Libia. Alcuni ovviamente dicono, davanti lo stupore, davanti una situazione così eccezionale, avanzano l'ipotesi che ci sia appunto un complotto, qualcuno, una trappola che sarebbe stata fatta ai danni di Strauss-Kahn, però sono tesi che non sono supportate da elementi molto concreti. Non si capisce per quale motivo adesso è così, si sarebbe fatto cadere Strauss-Kahn. In Francia, se si parla di complotto, si guarda soprattutto verso l'UMP, verso la destra francese, non si parla assolutamente di complotto internazionale, pochi avanzano queste ipotesi, anche perché bisogna ricordare che Strauss-Kahn, che è direttore dell'FMI, stava per presentarsi a elezione francese e dunque in quanto direttore del Fondo Monetario Internazionale era una questione di settimane ancora. E poi una guerra franco-americana sulla Libia è poco credibile, anche perché è l'America che ha chiesto alla Francia e alla Gran Bretagna di intervenire, nel senso che appunto l'America non voleva aprire un nuovo fronte e considera che in qualche maniera la situazione libica sono gli europei che devono risolverla, mentre loro hanno già due fronti militari aperti. Dunque questo elemento del complotto internazionale contro Strauss-Kahn la vedo poco. Poi anche quello, francamente, anche quello politico nazionale mi sembra difficile, soprattutto in questo contesto, nel senso che rischierebbe di essere un boomerang enorme per quelli, se fosse scoperto, per quelli che l'hanno ordinato. E dunque l'unico elemento su cui in effetti si un po' fanno ipotesi in Francia è l'idea che questa signora, sapendo le debolezze di Strauss-Kahn per le donne, avesse voluto in qualche maniera ricattarlo per avere i soldi. Questa signora, questa cameriera americana addirittura, vabbè, anche questa. Detto, magari che qualcuno l'abbia spinta a individuare queste debolezze in Strauss-Kahn ed approfittando che lei le conoscesse, Eric, perché dubito che questa cameriera di questo hotel americano conoscesse appunto così a fondo questa personalità così autorevole che ogni tanto frequentava questo albergo. Detto questo, non è che in Francia tutta questa vicenda di Strauss-Kahn ha rovinato un po' la festa della gravidanza della Premier Dame? Presunta o vera, tra l'altro, anche quella, visto che il suocero avrebbe confermato? Anzi, questo rinforza Sarkozy, perché ovviamente mentre una parte della sinistra e il Partito Socialista hanno mosso spesso delle accuse a Sarkozy, dicendo che visto il suo comportamento, il suo piacere di ostentazione, di interesse per i soldi, mettere in avanti la sua vita privata, una parte dell'opposizione diceva che lui non era adatto a fare il Presidente della Repubblica, non aveva la statura del Presidente, lo spessore del capo dello Stato francese, e invece adesso un po' le parti si rovesciano. Si sono invertite. Eric, purtroppo non posso continuare a sentire la tua analisi, che ci sarebbe piaciuta molta, ma magari ci ritorneremo. Oscar, quando tornerà, sono sicura che si appassionerà di nuovo al dibattito, al destino di Strauss-Kahn, e vedremo soprattutto quale sarà il suo destino. Certo che in questo momento se la passa proprio male in questo durissimo carcere americano. Grazie ad Alessandro Merli, Eric Joseph e Franco Becchis per essere stati con noi. 9 in punto di nuovo torna domani mattina con me, mi dovrete sopportare ancora per 2 giorni e mi dovete sopportare persino anche a Salvadanaio. Ci risentiamo alle 12, a più tardi. 9 in punto.